Bibbia Martini, primo libro delle cronache, 1 CR, 4 trattasi di nuovo della discendenza di Giuda, e di Simeone, e delle abitazioni loro. La stirpe di Sham è distrutta da figliuoli di Simeone, ed essi pure sono abbattuti gli Amaliciti. Figliuoli di Giuda, Fares e Esron, e Carmi, e Ur, e Sobai. E Raia figliuolo di Sobal generò Yadb, il quale fu padre di Aumai, e di Lad. Da questi le famiglie dei Xaratiti. Questa pure è la stirpe di Etam, Jezrael, e Yesema, e Yedebos, i quali ebbero una sorella per nome Asalelfuni. Fanuel fu padre di Gedor, ed Ezer padre di Osa. Questi sono i discendenti di Ur primogenito di Efrata padre di Betlehem. Assur padre di Tecua ebbe due mogli, Ala, e Naara. E Naara gli partorì Usam, ed Eper, e Temani, ed Astari, questi sono figliuoli di Naara. Figliuoli di Ala, Seret, Isar, ed Etnan. E così generò Anob, e Soboba, donde la famiglia di Are il figliuolo di Arum. Ma Giabes fu il più illustre tra suoi fratelli, e la madre sua gli pose nome Giabes, dicendo, l'ho partorito con dolore. Or Giabes invocò il Dio d'Israele, e disse, se tu mi benedirai distintamente, e dilaterai i miei confini, e se sarà meco la tua mano, e non permetterai, ch'io venga oppresso dalla malvagità. E Dio gli concedette quello, che gli domandò. Or Caleb fratello di sua generò Mair, il quale fu padre di Eston. Eston generò Betrafa, e Fesse, e Teina principe della città di Naas. Questi sono, che abitarono Reca. Figliuoli di Cenes, Otoniel, e Saraia. Figliuoli di Otoniel, Atat, e Maonati. Maonati generò Ofra, e Saraia generò Joab principe della valle degli artefici, peroché ivi abitavano gli artefi. Figliuoli di Caleb figliuolo di Gefone, Ir, ed Eia, e Naam. Figliuolo di Eia, Cenez. Figliuoli di Jalelil, Zif, e Zipa, Tluria, e Azrael. Figliuoli di Ezra, Jeter, e Mered, ed Eper, e Yalon, ed egli generò Maria, e Sammai, e Jezba padre di Estamo. Moglie di lui fu anche Iudaia, la quale partorì Jared padre di Gedor, ed Eber padre di Socio, e Icutiel padre di Zanoe. E questi sono i figliuoli di Betia figliuola di Faraone, sposata da Mered. E i figliuoli di sua moglie Odaia sorella di Naam, padre di Ceila sono Garmi, ed Estamo, il quale fu di Macati. Figliuoli di Saimon, Amnon, e Rinna figliuolo di Anan, e Tilon. E i figliuoli di Esi sono Zoet, e Benzoet. Figliuoli di Sela figliuolo di Giuda, Er padre di Leca, e Lada padre di Maresa, e le casate di quelli, che lavorano il bisso nella casa del giuramento, e colui, che arrestò il sole, e gli uomini della menzogna, e il franco, e l'ardente, i quali furono principi in Mob, e poi tornarono a Laem. La storia è antica. Questi sono quelli, che fanno i vasi di terra, che abitano alle piante, e alle siepi nelle case del re, lavorando per lui, e ivi abitarono. Figliuoli di Simeon, Namuel, e Gemin, Yarib, Zara, e Sol, di cui fu figliuolo Sellum, il quale fu padre di Mapsam, e questi fu padre di Masma. Figliuolo di Masma fu Amuel, di cui fu figliuolo Zakur, da cui nacque Semei. Semei ebbe 16 figliuoli, e 6 figlie, ma i suoi fratelli non ebbero molti figliuoli, e tutta la loro discendenza non poté agguagliare il numero dei figliuoli di Giuda. Egli non si stanziarono in Bersabee, e in Molada, e in Asarsual, e in Baia, e in Asoni, e in Tolad, e in Batuel, e in Orma, e in Saisleg, e in Betmarcabot, e in Asarsusim, e in Betberai, e in Saarim. Queste furono le loro città fino al tempo del re Davide. E i loro villaggi, Etam, Ein, Remmon, e Token, e Asan, numero 5. E insieme tutti i villaggi che sono attorno alle dette città sino a Bal. In questi luoghi essi abitano, e ivi sono distribuite le loro sedi. Mosobab, e Gemlek, e Iosa figliuolo di Amasia, e Joel, e Jeu figliuolo di Josabia, il quale fu figliuolo di Saraia figliuolo di Asiel, ed Elioenai, e Jacoba, e Isuaia, e Asaia, e Adiel, e Ismiel, e Banaia, e Zitza figliuolo di Sefei, figliuolo di Allori, figliuolo di Idaia, figliuolo di Semri, figliuolo di Samaia. Questi sono i capi illustri delle famiglie, e delle casate di Simeon, e si moltiplicò grandemente la loro schiatta. Ed egli no si inoltrarono per occupare Gador sino alla parte orientale della valle, cercando pascolo per loro greggi. E trovaron pasture abbondanti, e molto buone, e un paese molto ampio, e tranquillo, e ferace, nel quale avea prima abitato la stirpe di Sham. Quelli adunque, che sopra abbiam descritti per i loro nomi, andarono a tempo di Ezechia re di Giuda, e gettarono a terra le tende, e gli abitanti, che vi trovarono, e li annichilarono, come sono fino al presente, e vi abitarono in luogo di quelli, perché vi trovarono grassissimi pascoli. Andarono parimente altri dei figliuoli di Simeon al monte Seir in numero di 500 uomini, avendo per loro condottieri Faltia, e Naaria, e Rafaia, e Oziel figliuoli di Iesi, e distrussero gli avanzi degli Amaleciti, che avean potuto salvarsi, e ivi abitarono in luogo di essi, e vi sono fino al di d'oggi. Note, 4,1, figliuoli di Giuda, Fares, Esron, Eci. Si potrebbe tradurre discendenti di Giuda, Eci, però che è solo Fares figliuolo di Giuda, Esron è figliuolo di Fares. Carmi figliuolo di Zara, pronipote di Giuda. 4,2. Da questi due famiglie dei Xaratiti. Le famiglie, onde fu popolata Sarat, ovvero Sana, vengono da quelli, che sono nominati in questa luogo. 4,3. Questa pure è la stirpe di Etam. Se qui Etam è nome di luogo, o città, come credono molti, si dovrà intendere, che le famiglie, che abitarono Etam, furono quelle derivate dagli uomini, che sono qui nominati. Etam era nella tribù di Simeon, ma le due tribù di Simeon e di Giuda erano non solo vicine, ma mescolate tra di loro di abitazione. 4,4. Fanuel fu padre di Cedam e ci padre di quelli, che abitarono Gedor, ovvero Beth Gader. Così Ezer padre, o progenitori degli abitanti di Osa, ovvero Usat. Questi due Fanuel ed Ezer sono discendenti di Ur. Ur fu il primogenito dei figliuoli partoriti da Efrata a Caleb, e fu ancora padre dei Betlemiti, degli abitanti di Betlem detta anche Efrata dalla madre di Ur. 4,5. Anur padre di Tequa. Degli abitanti di Tequa. 4,8. E così generoici. Alcuni credono così figliuolo di Etnan, altri fratello. Può essere che ei sia lo stesso, che Cenes, 4,9, ma Labes fu il più illustre Eci. Se così è Cenes, Cenes fu padre di Otoniel, il quale poté avere due nomi, quello di Jabes dalla madre, quello di Otoniel dal padre. Di Otoniel vedi Ios, 15. 17, 18, Eci Jud. I, L, 3. 4,10. Se sarà meco le tua mano e ci vuo qui una reticenza, e si sottintende, io renderò grazie a te, e onorerò, e benedirò il nome tuo, offrirò sacrifici, Eci 4,11. Or Caleb fratello di suo Eci. Questo Caleb è differente da quello, di cui si è parlato di sopra, e differente anche da Caleb figliuolo di Gefone. Vedi V15. 4,13. Figliuoli di Cenes, Otoniel, Eci onde Otoniel è detto Ceneseo, ma anche il celebre Caleb figliuolo di Gefone e detto Ceneseo, onde alcuni han creduto che Caleb e Otoniel fossero fratelli e gli altri, che i fossero figliuoli di fratelli. 4,17 Padre di Estamo. Padre di quelli che abitarono Estamo città di Giuda. 4,18 Moglie di lui fu Ici. Sembra naturale che quel di lui si riferisca a Gesba. Ma in questo versetto non vediamo quali siano i figliuoli di Betia moglie di Mered. Gedor, Soco, Jutiel, Zanoe sono luoghi abitati da posteri di Mered. 4,19 I figliuoli di sua moglie Odaia Ici furono figliuoli di Odaia, probabilmente la stessa, che Judaia V18, moglie di Mered, anche Germi ed Estamo e Macati, o piuttosto Mered ebbe da Odaia ancor tre figliuoli, che popolarono quei tre luoghi. Estamo e Macati sono luoghi conosciutissimi, non però così Garmi o Garem. 4,21 Nella casa del giuramento punto l'ebreo in Betasbea. 4,22 E colui che arrestò il sole, re. La nostra Vulgata ha qui tradotto i nomi propri secondo il loro significato. L'ebreo sta così, e Gioachim è quel di Cosba, ovvero Cozeba, e Gioas e Suraf, che ebbero dominio in Mob, e quei che tornarono a Lehem ossia Betlehem. Gli ebrei sopra questo luogo segnarono che Elimelech marito di Noemi suocera di Buta arrestasse il sole per convertire i suoi compatriotti di Betlehem. Ma lasciando da parte le screditate loro invenzioni, per un uomo che arresta il sole, si può benissimo intendere un uomo di gran fortezza e valore, e quasi un altro Giosuè. Impero che Giosuè dall'avere arrestato il sole fu detto Gioachim, che significa colui che arrestò, vale a dire arresto il sole. Or quegli tra posteri di Sela, a cui fu dato lo stesso nome, fu probabilmente dopo i tempi di Giosuè, o se fu avanti, quel nome gli fu dato da chi scrisse di lui dopo il miracolo di Giosuè, e lo paragonò a quell'eroe. Nella stessa guisa l'autore della Vulgata suppone che negli altri nomi propri fosse nascosta un'allusione adattata a quelle persone. Cosba, o Cozeba è una città rammentata in Giosuè. Capitolo 15. 4,23 Che abitano alle piante e alle siepi. Ovvero come all'ebreo, Anetheim e Agadera. Di questi due luoghi della Palestina non si ha notizia veruna, come di altri rammentati in questi libri. Nelle case del re. Alcuni intenderebbero volentieri il re di Babilonia. Quasi questi discendenti di Sela nella loro cattività fossero impiegati a lavorare del loro mestiere per il re di Babilonia, ma il testo sacro non dà il minimo indizio, onde possa congetturarsi, che si parli qui di ebrei esuli dal loro paese, ed è più naturale il credere che questo re sia Davide o Salomone, o alcun altro dei re di Giuda. 4,29 In Tolad. In El Tolad, Ios. 19,4 4,30 Batuel. Credono che sia la famosa Betulia, Ios. 19. 4a, Giudit 6, 7. 4,33 Fino a Baal. Ios. 19,8 Fu detta anche Balat e Ballat. 4,39 Gador. Vedi Ios, 15. 58. Alcuni vogliono che sia Gadera, o Gaderotaim, Ios. 15,36. La storia descritta in questo luogo è questa: cresciuti di numero gli uomini della tribù di Simeon, e particolarmente le sciate illustri, delle quali furono capi i principi notati, V34. 35. Ici, e trovandosi i Simeoniti molto ristretti la mezzo alla tribù di Giuda, la quale dopo lo scisma avea occupate varie città tenute prima da Chec di Simeon, andarono ai tempi di Ezechia a conquistare Gadore e il paese circonvicino abitato da Cananei. per simil causa fu fatta da Cec di Simeon circa lo stesso tempo l'altra spedizione descritta. VV 42. 43.